cui ogni peccato è programmato più del Pascal. Io te la perquisisco a mo' di caspa, ci trovo vizi e pasta. Sei nell'angolo più di Dizzy Rascal. Non è Letizia, la tua tizia non è casta. Lo deduco dalla tu nella tua sacca. Hai l'alito di grappa, ma datti alla pappa come Gian Burrasca. Brucerai all'inferno come d'inverno una frasca. In tasca metti la mano per etti d'afgano. Ma cosa sei? Sei metallaro, ma sentite Albano. Mostri le zanne, ma mio caro, hai denti d'antaro. Con tutti i mezzi ti si fa pezzi più del meccano. Sei portatore insano di tasche, ti conviene confessare che con le mani in tasca vuoi protestare. Un anno nella cella è il posto dove stare, perché adesso noi comandiamo dall'est all'ovest, amen. Fratello, tu non mettere le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Io so che cosa fai tu, le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Fratello, tu non mettere le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Io so che cosa fai tu, le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Era uno stato regresso tentato dal sesso bendato, bombardato dal degrado più di Belgrado, dalla NATO. Uno stato in crisi, invaso da invasati, invisi al Vaticano. Coppie di fatto che stroncavano i patti fatti al Laterano, mentre catti blateravano contro noi in ogni forum. C'era una sola soluzione, come per il Gollum. Bang, bang, bang, bang. Quattro colpi al quorum. Riposi in pace, referendum in secula seculorum. Scomunicammo in nome di Dio un libro di Dan Brown sul priorato di Sion, dando l'avvio ad un'era di messa a morte da Crozza ad Andrea Rivera, passando per Harry Potter. Fu brusio di volantini sovversivi, fummo costretti ad adottare metodi repressivi. Quindi fiato sul collo c'è la gallera per chi porta le tasche, perché nelle tasche non c'è controllo. Fratello, tu non mettere le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Io so che cosa fai tu, le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Fratello, tu non mettere le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Io so che cosa fai tu, le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Da quel momento chi porta una tasca o è un artista oppure un tossico o entrambi come Baschia. Gente a cui basta fare il contrario come Bastian, per darsi più aria di quante ne abbia composte Bach Sebastian. Per questo sei stato arrestato. Tu credi nella favola della libera tasca, del libero strato. Camillo penso si è sbagliato. L'unica libertà è quella che sta sullo scudo crociato. Ripetiamo: in nomine libertatis vincula edificamus. In nomine libertatis vincula edificamus. In nomine veritatis mendacia efferimus. In nomine veritatis mendacia efferimus. Fratello, tu non mettere le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Io so che cosa fai tu, le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Fratello, tu non mettere le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Io so che cosa fai tu, le mani in tasca. È assurdo! Sono in prigione perché porto le tasche! È l'effetto farfalla, ragazzo. Chi modifica il passato stravolge il presente. Riporta Ilaria nel suo tempo. O il corso degli eventi non sarà mai più lo stesso.